La cima del pozzo si trova a 30 metri dal fondo, mentre l'acqua raggiunge un'altezza di 20 metri. Quanto deve essere lunga la corda per raggiungere almeno il livello dell'acqua?